Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Praticamente fatta, questa è l'ultima puntata della stagione del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera e buona domenica da Gegè Telesforo e buonasera e buona domenica Francesco Tromba. Ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta, Francesco, abbiamo portato a casa e a termine un'altra avventura. Eh sì, ormai siamo arrivati agli sgoccioli, è proprio la fine. Io ti ringrazierò dopo, alla fine di questa puntata, ma voglio ringraziare subito, perché è stata formidabile, Silvia Barba, e mi dispiace molto non averla avuta qui nel Groove Master Studio negli ultimi appuntamenti, però sappiamo che è impegnatissima con altre cose e l'abbiamo liberata. Eh sì, ormai è super richiesta. Allora, dopo il Soundchecker Play Music Award di ieri, abbiamo citato tutti gli artisti che hanno portato a casa questo titolo per questa stagione. Avevamo deciso di salutarci proprio con il sound di Fun Slow Ride, perché tu avevi delle curiosità. Sì, volevo chiederti un po' di cose su come è andata tutta la produzione di Fun Slow Ride. Allora, intanto ti volevo chiedere, guardando il disco, si capisce subito che è una produzione sia fuori, diciamo, da quelli che sono gli standard italiani, perché mi sembra innanzitutto partendo dall'artwork è molto interessante proprio l'idea. L'artwork è di Felice Limosani, che insomma sì. È italiano, ma è un artista internazionale, un creativo internazionale. Ed è impressionante come appunto nelle foto sui social, nelle foto sugli smartphone, appaia completamente diversa la copertina rispetto a quello che è quando lo vedi fisicamente. La prima cosa innanzitutto che ti volevo chiedere è se per questo lavoro hai lavorato completamente da solo o ti sei fatto aiutare da qualcuno? Beh, completamente da solo. Ho lavorato con alcuni fra i migliori musicisti della nuova generazione, italiani e americani, però c'è una persona che ha lavorato con me tantissimo, che è il mio ingegnere del suono, che è Riccardo Bomarzi. Lo ringrazio, lo abbraccio forte, continueremo a fare tanti lavori insieme. Ha calcolato che insieme abbiamo trascorso più o meno 300 ore in studio di registrazione. Io poi ne ho sommate altre, perché ho fatto poi altri turni negli studi americani insieme a Leo Sidran, a Ben Sidran, a Madison, Chicago, a New York, a Brooklyn, poi il mastering con Alan Jackson, Andy Jackson a Londra, al Tube, quindi tante ore di studio, e poi tutto il lavoro di Felice Limosani per il video, insomma quasi 500 ore di lavoro per realizzare quest'opera. Che è durato quanti anni? 3 anni. Quindi un bel lavoro. Un bel lavoro. Beh, tu hai seguito diversi momenti, perché sì, in questo studio, quando finiva la radio, si tornava a lavorare sul disco. Eh sì, soprattutto quando mi hai fatto sentire i primi master, le prime registrazioni fatte anche come, diciamo, in realtà dei provini, ho subito capito che si trattava di un lavoro veramente importante. Secondo me è il migliore in assoluto che hai fatto finora, se posso darti una mia opinione. Grazie, sei gentile. Ascoltiamo musica? Sì, però perché io non solo mi sto emozionando, ma sono anche un po' imbarazzato a fare l'ospite del mio programma quasi. Sei sdoppiato. Che vuoi? Partiamo dal primo brano? Partiamo dal primo pezzo, che è stato anche il primo che hai proprio dal punto di vista temporale scritto e prodotto. No? Eccolo qui, The Green Doctor, la voce, che meraviglia questa ragazza, Joanna Titters. E oggi stiamo raccontando Fun Slow Ride, questa avventura di Gegè Telesforo, ma di anche tantissimi altri musicisti a livello internazionale che hanno prodotto questo lavoro veramente bellissimo, assolutamente da ascoltare. Questa era la voce di Joanna Titters con The Green Doctor. E ti volevo chiedere come hai scelto soprattutto i tuoi partner dal punto di vista vocale, cioè ti sei scelto tu personalmente i featuring oppure ti erano suggeriti? No, personalmente, scrivendo le composizioni, a seconda delle composizioni sulle quali stavo lavorando, già immaginavo il tipo di voce, di pasta sonora, e poi avevo un sogno, quello di coinvolgere ancora una volta Ben Sidran, di mettere insieme la voce di Ben Sidran a quella più giovane di Ainé, che è stato anche nostro ospite, che è stato bravissimo. Pensavo di coinvolgere poi altri artisti della nuova generazione, e per fare questo mi ha aiutato molto il lavoro fatto con Leo Sidran a New York, perché insomma raggiungere Alan Hampton per esempio per Next non è stato facilissimo. È un'altra cosa che ti volevo chiedere, ascoltando sia appunto questo lavoro Fans Low Ride dal primo, proprio da quando era ancora in fasce, potremmo dire, mi sono accorto che secondo me ha influenzato molto questo lavoro il fatto che tu sia un conduttore radiofonico e che quindi per lavoro ascolti tantissima musica che viene da ogni parte del mondo. Quindi quanto ti ha influenzato secondo te nella produzione questo punto di vista? Ma credo che ormai faccia parte proprio della mia natura, no? La prima cosa che penso è quella di non annoiarmi, e quindi di conseguenza non voglio annoiare gli altri. Mm-hmm. Allora, quando realizzo un disco penso alle strutture discografiche, che devono essere godibili, non lunghissime, della giusta durata, e anche il piacere di ascoltare all'interno di una composizione, per quanto R&B o vagamente pop, un bel assolo strumentale. Ecco, questo è quello che mi piace nella musica. E ricordiamo che questo disco è dedicato all'UNICEF per intero, quindi ti volevo chiedere anche, diciamo, sei riuscito a farla ascoltare a dei bambini? Che cosa hanno pensato, e anche che cosa ha pensato tua figlia, che penso sia anche una delle muse ispiratrici di questo lavoro? Assolutamente, per mia figlia ho scritto Next, e poi anche il video che ha realizzato Felice Limosani, che fa parte proprio ormai di Fans Low Ride a tutti gli effetti, ha avvicinato molto il mondo dell'infanzia, perché questa animazione leggerissima con questi due personaggi, e quindi in qualche modo con la voce di Alan Hampton abbiamo tentato di raccontare una storia d'amore. Ma anche il video realizzato proprio per l'UNICEF, per il brano Let the Children, ha portato soprattutto gli adulti a riflettere sul mondo dell'infanzia. Soundcheck. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24, ultimo appuntamento per noi, mamma mia, fra pochissimo, pochi minuti a nostra disposizione ancora, e poi ci salutiamo sul serio, per ritrovarci anche forse a settembre, ma penso proprio di sì, non dovremmo avere problemi. Speriamo di sì, dai. Speriamo di sì, di avere il tempo di realizzare un'altra stagione di grande radio, perché insomma quello è l'obiettivo. E sperando che sia anche l'anno prossimo, anche la prossima stagione, una grande annata per la musica. Sì. Io voglio ringraziare Alan Hampton, un artista eccezionale con il quale abbiamo scritto questa composizione intitolata Next, a sei mani, perché poi c'è una bellissima donna, meravigliosa vocalist, che ha scritto gran parte dei testi e ha anche partecipato come solista al progetto Fans Low Ride, che è Greta Panettieri. Ti voglio bene, Greta, grazie per tutto quello che hai fatto per la mia musica. Ti volevo chiedere, a chi dedichi questo disco, oltre che ai bambini e all'UNICEF, che appunto è la dedica principale? Ma lo dedico a mia madre, prima di tutto. Lo dedico alla mia famiglia, al loro amore per avermi sempre sostenuto in tutto quello che ho fatto, e credo che siano stati anche gli ultimi ad ascoltare, i miei genitori, questo album. Per una volta non ho fatto sentire niente a papà, soltanto quando gli ho regalato il CD ha sentito che cosa avevo realizzato. Ma c'è un'altra famiglia che è importantissima anche in questo disco, la tua famiglia americana, quella dei Sidran, che contribuiscono a pieno in questa produzione, no? In questa produzione, ma anche in altre produzioni precedenti. Insomma, io Ben lo conosco da tanto tempo, sono cresciuto musicalmente con lui, lavorando in giro per il mondo per la Go Jazz All Stars. Ho iniziato a produrre dischi proprio per la Go Jazz, e naturalmente non potevo coinvolgere Ben anche in questo album, e ha scritto il testo bellissimo di Led Children insieme a Greta Panettieri, E poi ringrazio Leo Sidran per avermi dato una grande mano nella produzione, soprattutto nella fase americana, perché dopo aver realizzato i brani in Italia mi sono spostato a New York, a Chicago, a Madison e poi a Londra per registrare le varie partecipazioni, i vari guest. E Leo è stato fondamentale. Intanto è diventato un ingegnere del suono incredibile, un meraviglioso producer, e abbiamo già messo in cantiere Fans Low Ride volume secondo, quindi siamo pronti per dare il via anche a questo nuovo lavoro. Quindi ci sarà anche un seguito. Il seguito, senz'altro. Allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Ti volevo chiedere, perché hai scelto di inserire I Shot the Sheriff, che poi è l'unica composizione non originale? Perché amo Bob Marley. E anni fa avevo realizzato vari arrangiamenti per fare un tributo personale a Bob Marley con varie guest italiane e internazionali. Poi il progetto non è andato in porto e allora sto pian piano recuperando gli arrangiamenti e anche in questa produzione col concept di Fans Low Ride, che parla della vita, dell'amore, del futuro, I Shot the Sheriff, anche come tematica mi sembrava adatta e importante da inserire. E andiamo ad ascoltarcela allora, I Shot the Sheriff, Fans Low Ride con Moses Pelham. Soundcheck. Il suono della musica. Sono tanti i musicisti e vocalist coinvolti nel progetto Fans Low Ride, mio caro Francesco, quindi ringrazio subito Sacha Alvasandani, interprete di questa bellissima canzone intitolata Say No, e ancora Joanna Teeters, Ben Sidran, Aine, Joy Dragland, Alan Hampton, la piccola Soul Parker Sidran, che ha detto soltanto una parola, Next, poi Moses Patro, Greta Panettieri, grazie Greta per i bellissimi testi, e anche Alfonso De Ida con i suoi sassofoni e i suoi arrangiamenti, Maxionato al soprano, Daniele Raimondi alla tromba, Giovanna Famulari al violoncello, grazie Giovanna, Pasquale Strizzi, Domenico Sanna e Sebi Burgio ai pianoforti, Rod Spender, Wurlitzer, grazie a Pasquale anche per alcuni arrangiamenti, Amin Salim, fratello Joseph Bassi, due colossi al contrabbasso, Dario Panza, John Avatartelli alla batteria, e poi ancora grazie al mio ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, a Leo Sidran, Mark Whitcomb, Daniele Chiariello per i bellissimi mix allo Zork Studio, Andy Jackson per il mastering al Tube Mastering, grazie a Felice Limosani per l'artwork, grazie a Igea Music e a Rope Dope per tutto il supporto, grazie a tutti voi per aver seguito questa stagione del Soundcheck di Radio 24. E quindi a questo punto vorrei anche ringraziare e salutare Radio 24 nella persona di Roberto Napoletano, il nostro direttore, per aver creduto nella nostra musica, il vice direttore Sebastiano Barisoni, Alessandra Scaglioni, tutto lo staff tecnico di Silvio Lorenzi, grazie anche ad alcuni amici che hanno segnalato molte produzioni discografiche come Leo Sidran stesso, Roberto Ramberti, e grazie di cuore a Silvia Barba e a Francesco Tromba per aver collaborato ancora una volta a una grande stagione di musica. Grazie a te, grazie soprattutto ai radioascoltatori e a tutti gli appassionati di musica che rappresentano appunto la base, l'humus di tutta l'industria musicale. Grazie a tutti voi e trascorrete una estate meravigliosa, piena di musica, e dovremmo risentirci, dovremmo tornare a settembre sempre qui dal Groove Master Studio, sempre soltanto sulla nostra radio preferita, Radio 24.